9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, purtroppo la voce è un po' quella che è oggi perché c'è un raffreddore in marcia, quindi io mi scuso preventivamente, alla voce già chioccia abitualmente si aggiunge questo problema. Oggi, questo 26 di aprile, San Marcellino, ci occupiamo dei due quesiti referendari inerenti alla materia dell'acqua, quesiti su cui l'attenzione dopo la campagna di raccolta di ben 1.400.000 firme che ha portato al loro deposito presso la Corte Costituzionale, che ha messo due dei diversi quesiti presentati, quesiti su cui l'attenzione è tornata in questi ultimi giorni alla notizia che il governo si accingerebbe a un intervento legislativo per impedire quindi la celebrazione del referendum. Tenteremo di capire con i nostri ospiti se davvero i referendum sono volti a impedire una privatizzazione dell'acqua che discenderebbe dai testi della legge Ronchi rispetto a cui sono stati presentati i quesiti, o se invece la questione non stia un po' diversamente, e comunque quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui si votasse e i quesiti fossero accolti. Prima di presentarvi gli ospiti e di entrare nel merito, una precisazione, perché quando ci siamo occupati la settimana scorsa, per questo ho collegato la precisazione al tema perché era comunque referendario, di nucleare, un ascoltatore che di quelli a cui abbiamo dato la linea all'800240024, a proposito, iniziate a comporre il numero per dirci come la pensate voi sul referendum dell'acqua, ha mandato una lettera documentata dicendo, lamentando, da un certo punto di vista ha ragione, e quindi per questo voglio iniziare la trasmissione con questo diritto di replica da parte sua. Si chiama Salvo Mandarà, tra l'altro io lo conosco anche se non l'avevo riconosciuto per telefono, ed era l'ascoltatore, qualcuno forse lo ricorderà, che io ho strattonato un pochino nella fretta del dargli la parola e poi del riprendermela, perché il punto era che non ricordava bene l'ordine di grandezza degli incentivi pubblici al fotovoltaico e alle rinnovabili di cui stavamo discutendo, quelli il cui regime è stato modificato dal governo. Non ricordava se si trattasse di centinaia di milioni o di miliardi l'anno, invece sono miliardi. E Salvo Mandarà mi ha mandato una precisazione lunga con a corredo un documento tecnico elaborato da tecnici del CNR, nel quale dice, caro Giannino, però tu devi andarci piano con gli ascoltatori, perché il problema è che ciò che intendevo sottolineare è che la mole di incentivi verso i quali eravate molto critici va comunque commisurata al risparmio che si determina per gigawatt di potenza installata una volta che uno mette da una parte in una colonna gli incentivi e dall'altra mette il risparmio che si determina quando nel momento di picco questa potenza interviene in gioco rispetto alla tariffa e al costo dell'energia elettrica. E in effetti nel documento che ci allega Salvo Mandarà, i tecnici del CNR stimano che per ogni gigawatt di potenza installata, e quindi per 450 milioni di euro di fotovoltaico all'anno sotto forma di incentivi, si risparmiano 500 milioni di euro all'anno grazie alla differenza di prezzo dell'energia fotovoltaica nelle ore di punta rispetto al mercato. Io il documento l'ho visto, l'ho fatto vedere anche ad amici tecnici che mi hanno detto a loro volta che è un documento molto estremo, perché si tratterebbe di utilizzare l'intero fotovoltaico italiano solo nel punto di picco della tariffa. Breaking news. Aggiornamenti sulla vicenda Parmalat. Il gruppo francese Lactalis ha annunciato la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo di Collecchio a un prezzo di euro 2,6 per azione. Questo è quanto riferisce un comunicato. Ricordiamo che oggi cominciano le riunioni tra la Cassa Depositi e Prestiti e le banche messe insieme per la cordata italiana, e di questo si dovrebbe parlare anche all'interno del vertice italo-francese tra il premier Berlusconi e il presidente Sarkozy. E vedremo nell'arco della giornata quanto questo tema sarà rilevante nell'agenda del bilaterale italo-francese. E quindi, per rendervi pienamente conto di questo diritto di replica, diciamo così, abbiamo informato di come Mandarà e tanti altri, a dire la verità, ho dato voce a lui, perché tanti dicono che la stima degli incentivi va fatta però su quanto si guadagna. La stima di questo guadagno, ripeto, io l'ho trovata molto discutibile, perché è fatta tutta sull'intervento del totale della potenza potenza realizzata di alternative fotovoltaiche esclusivamente nel momento del picco della tariffa, cosa che non avviene, mi si garantisce. Ora passiamo invece agli ospiti di oggi per capire meglio i due quesiti sull'acqua, con un ulteriore caveat, e qui finisco perché oggi non posso entrare nel merito, perché io in realtà sono presidente del comitato del no a questi referendum, quindi spero apprezzerete il fatto che oggi mi limito a condurre, a fare domande, ma dopo avervelo detto, in realtà, che siete informati di questo conflitto di interesse, mi devo ritirare nel fare domande il più possibile non fuorvianti. I nostri ospiti di oggi: abbiamo con noi il professor Alberto Lucarelli, che insegna diritto pubblico all'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è tra i redattori dei tre quesiti iniziali del referendum sull'acqua pubblica promossi dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Buongiorno professor Lucarelli. Buongiorno a lei. Abbiamo con noi Carlo Stagnaro, lo conoscete, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. E Mauro D'Ascenzi, che è il vicepresidente delegato di Federutility. Buongiorno D'Ascenzi. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora Stagnaro, le affido subito la parte a cui poi dopo risponderà il professor Lucarelli. Questi quesiti sono contro la privatizzazione o in realtà su che cosa sono davvero e quali conseguenze avrebbero se venissero accolti e votati con il quorum e accolti dalla maggioranza? È difficile dire se sono contro la privatizzazione, perché è difficile porre un quesito contro qualcosa che non c'è. La gestione dell'acqua oggi in Italia non è privatizzata, cioè non è affidata in via ordinaria a soggetti privati che sono proprietari o semplicemente gestori dell'acqua e dell'infrastruttura, che è peraltro uno scenario che a me non dispiacerebbe, ma non è di questo che stiamo parlando. La normativa italiana dice un'altra cosa, dice la gestione dell'infrastruttura idrica, cioè degli acquedotti, fognature, depuratori e così via, deve essere affidata al suo gestore attraverso una gara che può essere vinta da soggetti pubblici o da soggetti privati, ma per poter gestire l'infrastruttura occorre aver soddisfatto i requisiti di una procedura a evidenza pubblica. Che succede? Occorre aver soddisfatto i requisiti di una procedura a evidenza pubblica attraverso la quale il miglior offerente possa vincere il bando. In questa maniera si spera di poter redistribuire a favore del consumatore una parte della rendita monopolistica, che è inevitabile nella gestione di quello che è un monopolio tecnico. Si spera di poter creare condizioni tali da mobilitare i finanziamenti e le risorse necessarie a poter effettuare quegli investimenti che sono indispensabili in un paese dove oltre un terzo dell'acqua trasportata dalle condotte viene persa e dove soprattutto una quantità abnorme di comuni italiani non sono in grado di soddisfare le normative europee riguardo l'inquinamento, la depurazione e così via. Allora, Lucarelli, dice Stagnaro, i quesiti non sono come sono stati presentati contro una privatizzazione che non c'è, sono semplicemente, o quantomeno la maggior conseguenza sarebbe quella di non far tenere gara di evidenza pubblica, quindi meno trasparenza, con il messaggio per il quale i comuni gestirebbero in house i servizi, gli investimenti che potrebbero apportare privati, che potrebbero concorrere sul piede paritario dei pubblici alla gara pubblica, ove ci fosse, per la gestione del servizio. Però sta di fatto che i privati hanno più risorse da investire e ci vogliono più di 60 miliardi, queste sono le stime, per rendere più efficiente il servizio idrico nel nostro paese. Il pubblico questi soldi non ce l'ha e finirebbe per pagare di più con la fiscalità generale. In che cosa il ragionamento delle obiezioni di Stagnaro è sbagliato o non condiviso da parte vostra, Lucarelli? Ma una premessa è questa, guardi, a partire dalla metà degli anni 90, cioè da quando sono cominciate a essere introdotte forme di privatizzazione, di società miste e comunque diciamo quando si è passato da una gestione di soggetti di diritto pubblico a soggetti formalmente di diritto privato, c'è stato un aumento notevole delle tariffe, c'è stato un crollo degli investimenti, c'è stato un aumento in un uso irrazionale delle risorse idriche. Ora questo come punto, diciamo come situazione di fatto. Da un punto di vista normativo devo dire che è abbastanza imbarazzante questa normativa Ronchi, perché è una normativa che obiettivamente ci portava al di fuori sia del quadro costituzionale nostro ma anche del quadro europeo. Tant'è che le due recenti sentenze della Corte Costituzionale, quella del 2010, no, la 382, ma ancor più diciamo la 24 del 2011, con la quale si dichiara appunto l'ammissibilità proprio del quesito referendario, è molto chiaro e dice, guardate, non c'è nessuna norma comunitariamente necessaria, non c'è nessuna imposizione da parte del diritto comunitario, e al contrario invece c'è il principio per cui di libertà, di scelta sia di qualificazione del servizio, cioè economico o non economico, e sia di individuazione dei modelli di gestione. Quindi devo dire che questa forzatura del Ronchi francamente è incomprensibile, cioè imporre un modello, tra l'altro anche individuando e specificando quale forma giuridica dovrebbero adottare, diciamo, nella gestione, nell'affidamento della gestione ai comuni, e non lasciando alcun spazio ai proprietari, diciamo, delle reti e comunque agli enti locali più vicini ai cittadini, no? Che sono appunto i comuni. Quindi non la vedo come una lotta pubblico-privato, in realtà la vedo come principalmente come una sorta di come dire, battaglia per ripristinare i principi fondanti sia del diritto europeo che dei principi costituzionali, ma ancor più di ridare, e questo poi è l'aspetto anche innovativo, diciamo, di questa cosiddetta battaglia, a me non piace usare questo termine, ma comunque insomma, di questa campagna referendaria, di ridare anche dignità ai cittadini. Infatti si parla non tanto di governo pubblico, ma quanto di governo pubblico partecipato, e qua ci sono una serie di modelli anche all'estero che sono molto interessanti da verificare. Però secondo lei, per tornare alla questione che le avevo chiesto, la gara di evidenza pubblica, non farla, è più conforme al diritto costituzionale italiano e al diritto comunitario, o invece è meglio farla? Guardi, il principio della concorrenza, che poi è la gara, è diciamo, intanto non è un principio costituzionale, non lo ritroviamo in Costituzione, né è un principio europeo, è una regola, tant'è che le stesse norme del trattato, in particolare l'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove parlano appunto di servizi di interesse economico generale, dicono, in linea di principio, ecco, anche questi servizi possono essere messi sul mercato e quindi a gara, tuttavia c'è tutto un regime derogatorio, il che fa intendere che non si tratta appunto di un principio dominante, ispiratore delle politiche pubbliche europee, ma si tratta invece di una regola che deve essere misurata con altre regole e subordinata a dei principi. No, no, per carità, sì, però io qui ci dividiamo, perché la mia opinione è netta, è che rispetto a quello che conosciamo e abbiamo sotto gli occhi per decenni del settore pubblico italiano, la trasparenza in una gara a evidenza pubblica evita tutto quello che abitualmente altrimenti si celebra, a meno che, come sostengono i sostenitori, è 1.400.000 di italiani che hanno dato loro le firme, quindi non bisogna mai affatto immaginare che siano né sprovveduti né non vi abbiano riflettuto, a meno che si siano convinti che su questo settore invece assisteremo a una trasparenza in re ipsa, perché è un bene comune l'acqua. Io credo che nella raccolta delle firme ci sia stata un'elevata cifra di mistificazione per il fatto che si dice che qui ci sono i privatizzatori. L'acqua è pubblica nel nostro ordinamento, nessuno nella legge Ronchi né altrove immagina diversamente, ma comunque avete sentito, Luca Redi dice, chi l'ha detto, bisogna fare la gara. Che ne pensa a questo punto D'Ascenzi, vicepresidente delegato di Federutility? Le forme attraverso le quali in questi anni si è evoluta la natura giuridica di chi offre il servizio in Italia. Noi abbiamo servizi ancora organizzati in house dai comuni, abbiamo società che sono ancora a controllo pubblico, ma magari in forma societaria privata e con presenza di capitale misto di privati. A questa, per esempio, natura corrispondono grandi utilities che nel frattempo si sono anche quotate in borsa. Io credo che la quotazione in borsa serve a dare loro più, ancora anche in questo caso, più trasparenza e più efficienza nei conti, nell'utilizzo degli investimenti e così via, ma sono ancora a controllo pubblico, anche se poi nella forma societaria è privata e c'è capitale privato dentro. Ci sono anche società private e ci sono società private pochissime, a dire la verità, anche se la campagna referendaria le presenta come se fossero all'angolo di ogni gestione di servizi idrici in Italia, che sono grandi gruppi internazionali che, proprio per essere grandi gruppi internazionali, hanno messo a frutto una elevata capacità di organizzare questo tipo di servizi, che sono servizi a trattamento completo dal punto di vista moderno, non sono solo l'acqua potabile, c'è l'intero trattamento ovviamente delle acque reflue, e l'acqua è una risorsa rinnovabile, lo riconosco, lo ricordo a tutti, questo è l'importanza del ciclo completo dell'acqua da garantire in un paese moderno, pensando sempre al suo riutilizzo. Ecco, in questo tipo di efficienza, ovviamente i grandi gruppi internazionali, le cosiddette famigerate multinazionali, hanno naturalmente sinergia ed efficienza maggiore comparata. Io non ci vedo niente di male a consentire anche loro sul piede paritario di partecipare alle gare invece che alle gare non farle. Ma la mia domanda per da Scienzi è: quanto la varietà delle forme giuridiche e dei controlli proprietari di chi effettivamente offre il servizio in Italia consente, diciamo, tutta questa confusione, se posso dire la verità, su chi lo offre davvero, di chi sia la responsabilità maggiore dell'inefficienza dell'acqua? Ricordo, a conclusione di questa domanda, per informazione di chi ci ascolta, che nel rapporto redatto dal Mulino ogni anno, quello della versione dell'anno scorso, sulla società pubbliche locali in Italia, fatto 100 il valore del patrimonio dei soggetti diversi che gestiscono il servizio idrico in Italia, il totale del capitale privato è pari al 9%. Dal mio punto di vista, quindi, la responsabilità delle inefficienze, del più del 30% dell'acqua che perdiamo nella distribuzione, del fatto che vi sono parti d'Italia in cui ritiriamo 150 litri per offrirne 100, e del fatto che ci mancano più di 60 miliardi da investire, secondo me al 91% dipendono da chi è il 91% del totale 100 dei soggetti che gestiscono il servizio, cioè i soggetti pubblici, dai quali io diffiderei quindi di che abbiano le risorse e la competenza, visto il bel risultato che ci hanno consegnato. Però evidentemente, sostiene Lucarelli, noi sbagliamo a ragionare così. Chiedo a da Scienzi, allora, dal vostro punto di vista, le cose come stanno? Le cose come stanno? Le cose naturalmente stanno in modo un po' più articolato, sia di quanto ha detto lei che di quanto ha detto Lucarelli. Intanto andrebbe fatta una lettura più attenta, che si basi su dati reali, concreti, materiali. Allora, vi sono zone del paese di eccellenza nel servizio dell'acqua. E queste sono talvolta gestite da pubblici con tariffe basse ed efficientissime, talvolta gestite da società miste, qualche volta raramente da società private, perché parliamoci chiaro, questa è una retorica contro il privato che non esatto. Ha senso. Cioè, in Italia lei ha parlato dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista delle gestioni sono il 3% i privati, sono quei pochi privati che hanno partecipato alle prime gare in Italia. Le prime gare hanno avuto 6 partecipanti, poi successivamente sono scese a 3, poi a nessuno, perché in Italia in realtà non è contendibile l'acqua, non tanto per ragioni ordinative, ma per ragioni economiche. Cioè, noi abbiamo, che se ne dica, 67% di aumento, insomma, bisogna dire che talvolta lo zero non è moltiplicabile, quindi non so, in alcuni posti non si pagava nulla. Oggi noi, nonostante questo 67% di aumento delle tariffe, abbiamo le tariffe più basse d'Europa, che incidono sul costo della famiglia di circa lo 0,3%, infinitamente di meno di una telefonata. E lei sa quant'è un metro cubo d'acqua, quanti sono 1000 litri, se le cadono addosso l'affogano, mentre invece una telefonata costa molto di più ed è solo aria che viaggia, è solo magnetismo che si cosparge nell'aria. Allora, se partiamo da questo dato, noi ci accorgiamo che vi è un grande fabbisogno. Non vorrei tanto questa, si perde il 40%, sa perché si perde il 40%? Non si perde il 30%, si perde di più, si perde il 40%, perché è talmente bassa la disponibilità economica che conviene perdere l'acqua. Questo bisogna dirlo, come bisogna dire che pesano su di noi 800 provvedimenti da parte della Comunità Europea, perché non abbiamo i depuratori in zone del paese che potrebbero sviluppare la propria e capacità anche turistica, e se non si faranno questi depuratori noi avremo delle multe. Non si parla di questo, si parla del quadro, si parla cioè della cornice e non del quadro. Allora, il punto principale, quali sono le ragioni? Le ragioni, guardi, non sono tante, date dalla forma di gestione, se è pubblica o è privata, perché, come le ripeto, vi sono esempi eccellenti di pubblico, vi sono esempi pessimi di privato e viceversa. Il punto è che nessuno affronta un piano ed un progetto completo. Quando si parla di 60 miliardi di investimenti nell'acqua, noi stiamo parlando del più grande provvedimento di green economy che potrebbe verificarsi in questo paese. Ogni miliardo investito nell'acqua sono circa 20.000 posti di lavoro, in questo momento è una misura anticiclica. Ora, per fare questo occorre un'idea, un progetto, delle risorse e dei soggetti in grado di farlo. E serve questo referendum, secondo lei? No, allora, io sui referendum voglio dire questo. Abbiamo evitato il peggio. La Corte Costituzionale ha bocciato quello che allora era il secondo, adesso chiameremo secondo l'altro su cui vorrei soffermarmi un attimo, cioè ha impedito che l'Italia, sulla spinta di un'onda emotiva, decidesse di fare come la Corea. Perché, per essere chiari, quello determinava l'obbligo alla sola gestione pubblica. Questo nel mondo mi risulta ci sia solo in Corea. Meglio però precisare la Corea del Nord. Corea del Nord, naturalmente. Perché negli stessi paesi dove oggi si procede anche alle ripubblicizzazioni, lo si fa in virtù di una legge che permette sia la gestione privata che la gestione pubblica che la gestione mista. E domani a Berlino, dove hanno ripubblicizzato l'acqua, ma sia chiaro che lì costa 4 euro anziché meno di 1 euro, 4 euro al metro cubo, se domani quella gestione andasse male, la riprivatizzano. Quindi è ovvio che c'è questa possibilità. Quello è stato evitato. Il primo referendum, guardi, non mi straccio le vesti. Nel senso che poi alla fine è vero quello che si dice, il professore è stato molto bravo in questo, si è detto che si recepivano norme europee, non è così, in Europa ci sono le tre forme di gestione, ma è anche vero che la terza forma, quella pubblica, surrettiziamente dai regolamenti successivi, è stata reintrodotta, quindi quello comunque vada non cambierà nulla. Mentre invece, mi permetta, mi rendo conto di parlare troppo a lungo per lo stile della sua trasmissione, ma semmai mi penalizzerà dopo. Qui nessuno si concentra sul secondo referendum, che è essenziale anche per le gestioni pubbliche, cioè anche per le gestioni e le società interamente pubbliche, quella che elimina la remunerazione del capitale investito e che possa essere questo messo sulla tariffa. Non so se ho ancora un 30 secondi. Dica, perché tanto noi, guardi, facciamo così, anzi, io parlo della pubblicità perché ripartiamo esattamente dalla tariffa e da questo punto che non avevamo toccato. E dal ricordare per coloro che volessero approfondire che tra pochi giorni troveranno in libreria un libro che esce apposta in vista di questa campagna referendaria, che essa poi si tenga o meno, e questo libro è proprio fatto sulla base per informarvi sulle esperienze comparate che nei diversi paesi del mondo sono state realizzate in questi anni, sia di ritorno indietro dalla gestione privata che di espansione della società privata. Ne riparleremo, intanto pubblicità. Allora, riprendiamo dalla questione della remunerazione degli investimenti in tariffa e dall'alternativa. L'alternativa è fiscalità generale, ovviamente, perché non è che tutto si può fare gratis. A proposito, visto che nel prezzo comparato noi paghiamo l'acqua pochissimo nel nostro paese. Allora, riprendiamo da scienze. Pochi spiegano, e quasi nessuno sa in realtà, persino tra i promotori, il significato di questo referendum, che poteva avere un senso nel momento in cui avessimo dovuto fare come la Corea del Nord, cioè ristatalizzando tutto, i soldi devono venire, secondo i promotori, per un principio coerente, dalla fiscalità generale. In realtà questo è saltato. Allora, che cosa succede? Succede che se passa questo referendum, nella tariffa non può essere messo il capitale investito, la remunerazione. Questo è stato cabellato come impedire che vi sia utile sull'acqua, che si faccia utile. Io non ho capito bene perché sull'acqua non si possono fare degli utili saggi, magari reinvestiti, mentre lo si possono fare per le medicine anticancro. Ma comunque lasciamo perdere questo aspetto. L'utile è anche un indicatore di efficienza, di efficacia. Poi vi sono le regole, le norme che lo stabiliscono. Se non è possibile fare questo, io mi troverei nel caso paradossale per cui con la mia tariffa io non pago gli investimenti. Immediatamente avremo un blocco, è ovvio, si parla solo per il prossimo anno di 4 miliardi di euro di investimenti, 80.000 posti di lavoro. Allora, poi è ovvio che avendo provvedimenti da parte della Comunità Europea, eccetera, bisognerà ripristinare il ciclo, passato un periodo di stallo, di difficoltà, con le difficoltà che questo Paese ha di finanza e di decisioni, meccanismi decisionali, si troverà il modo per imporre nuove tasse perché si possa pagare gli investimenti e si faranno ovviamente nel modo migliore o peggiore. Vorrei però evidenziare, soprattutto a chi pensa a questo referendum come un elemento di giustizia e di equità sociale, come introduzione, che io mi troverei nella situazione paradossale per cui, essendo un lavoratore a reddito fisso e quindi non posso evadere le tasse, con le mie, mi si aumenteranno le tasse per pagare l'acqua. una parte di questi investimenti andranno sicuramente a favore di chi ha la piscina, che magari se l'è fatta. Quindi pienamente regressivo l'effetto. Perché ha evaso le tasse. Ora, io preferirei che a pagare gli investimenti siano quelli che l'acqua la usano. Esatto. Sicuramente con delle stratificazioni sociali. Va bene. Pagare meno. Chiarissimo, eccetera, eccetera. Chiarissimo da Scienzi. Cosa risponde Lucarelli su queste osservazioni di chi dice senza remunerazione in tariffa fate demagogia perché credete di poter spacciare, che il prezzo deve restare basso perché sono i cattivi privati che ci vogliono speculare, mentre è basso e questo spiega l'inefficienza dell'acqua nel nostro paese. Pagare di più serve a non essere regressivi socialmente come effetti se si paga con la fiscalità generale, serve a indurre anche la gente a essere più attente nei consumi. Perché questi ragionamenti sono sbagliati, Lucarelli? Sì, no, intanto sulla Corea mi sembra, ecco, che questa sia demagogia, perché la riforma tra virgolette pubblicistica nel nostro paese è stata introdotta da una cultura liberale che anzi superava la... Vabbè, Lucarelli, adesso se vogliamo dire che il tutto pubblico in Italia è la realizzazione del liberalismo, Lucarelli, questa non gliela passo. Lei è la sua opinione, no, ma non no, gliela no, passo. No, questo è un paese statalista che nella Costituzione ha celebrato l'incontro, nei primi articoli della prima parte, sì, di due grandi culture, quella cattolica e quella socialista, che vedevano nello Stato, non nel mercato, nell'individuo. Questo lo leggiamo su tutti i testi, non mi può dire adesso che viviamo nell'ordinamento liberale conclamato, perché di solito apprendiamo nei libri il contrario. Però stiamo sul punto. No, però dico semplicemente questo, che l'articolo 43, che poi è dove si trovano le radici della nostra Costituzione economica, un articolo che fu voluto dai Einaudi, insomma, qui diceva, guardate, il pericolo maggiore è proprio i monopoli naturali affidati a soggetti privati, quindi il discorso privatissimo sui monopoli naturali. Vabbè, ma comunque qua chiaramente si aprirebbe ora siamo sul punto, tariffa e chi paga. Sì, ma guardi, questo problema in realtà era già stato superato con le aziende speciali. Le aziende speciali, che erano una figura efficiente che in qualche modo doveva superare a partire dagli anni 90, ancor più dal testo unico, le aziende municipalizzate. Perché? Perché le aziende municipalizzate avevano funzionato bene, in maniera efficiente, fino a che non erano state devastate dai partiti politici. Questa è la realtà. Ah, appunto. E perché ci vogliamo tornare? Questo è il punto. Allora, Se si riparte da un sano principio di separazione tra politica e amministrazione... Ma dove? Come? Professore, ma mi spiega dove lo vediamo? Com'è possibile che con questi referendum... Perché io... Guardi, se questi referendum dicessero si attua questo miracolo di cui tutti siamo in attesa, perché a prescindere da come la si pensi politicamente, quello è uno dei dannati problemi dell'Italia. Mi spiega perché sono nell'acqua, tornando a renderla tutta pubblica, ci si dovrebbe separare i partiti che sono la tabe dei servizi pubblici locali quando gestiti dai comuni e invece non dovrebbe avvenire più. Perché? Come si fa? Ma perché c'è, proprio, cioè noi stiamo ragionando su aspetti patologici, cioè su come a un certo punto è stata ridotta, diciamo così, la struttura pubblica e quindi le forme prima delle aziende municipalizzate e poi purtroppo le aziende speciali che non sono state mai messe in grado di funzionare. Perché se si ripartisse da quella visione delle aziende speciali che era la trasformazione in termini di efficienza e di efficacia del soggetto di diritto pubblico, ma lo distanziava diciamo dall'amministrazione locale, dal comune, perché ci dobbiamo ricordare che l'azienda, vabbè, lei dice che con le aziende ha una speciale sua personalità, perfetto, una sua personalità giuridica, si può evitare, ho capito, e questo è chiaro. Lei dice che bisogna tornare a quel modello mai implementato. Tariffa, perché non è vero che con più fiscalità generale paga in maniera regressiva chi ha meno invece che far pagare di più chi consuma e quindi adeguare le tariffe alla realtà degli altri grandi paesi europei? Perché è sbagliato questo ragionamento, Lucarelli? Ma guardi, perché i dati oggettivi in questo senso sono lampanti. C'è stato, come si diceva anche prima del resto, c'è stato a partire dalla privatizzazione, a partire dal 96-97, in Italia c'è stato un aumento netto delle tariffe. Questo aumento delle tariffe è ricaduto quasi esclusivamente o esclusivamente sui cittadini. Quella remunerazione del capitale investito, di cui al terzo quesito, sì, si parla di circa un 7% che ricade sulle bollette. Sì. Quindi non riesco francamente a capire perché, diciamo, in un settore quale l'acqua, ecco, bisogna parlare di profitti, quando poi questi profitti vengono sostanzialmente svolti attraverso un pagamento che ricade esclusivamente sui cittadini stessi. Perché se noi consideriamo che gli investimenti nel nostro paese, finché c'era una dimensione pubblicistica, hanno tenuto, diciamo, un certo standard. Professore, ma nel frattempo la finanza pubblica centrale e locale, come apprendiamo ogni anno dalle polemiche che esplodono quando si tratta di fare la ripartizione, fino a che non ci sarà il nuovo ordinamento, semmai ci sarà quello del federalismo fiscale, ma intanto quando c'è la ripartizione annuale dei tagli esplode la polemica. Cioè l'orizzonte di fronte a noi, professor Lucarelli, è un orizzonte in cui la finanza pubblica da investire a pacchi di decine di miliardi qua non c'è, non ce l'hanno i comuni che hanno fino a qua il nodo scorsoio stretto del patto di stabilità interna, e non facciamo altro che riferire le loro ragioni, le loro proteste, e tantomeno ce l'ha lo Stato centrale. Quindi l'orizzonte rimpianto da voi propositori, quello nel quale c'era vasta disponibilità di risorse, era perché era pubblica o perché all'epoca si buttavano i soldi nel pubblico? E poi le tariffe alzate con i soggetti nuovi, infatti con le forme miste, è perché bisognava alzarle perché il livello delle tariffe era incomparabilmente più basso degli altri concorrenti, oppure secondo voi perché erano i nuovi soggetti cattivi e le tariffe non vanno adeguate? Perché io torno a dire, bisogna adeguarle ai consumi e agli altri paesi europei o no? Ma quello che torno a dire è invece questo, cioè che c'è stato, questi non sono dati oggettivi, c'è stata una riduzione degli investimenti, perché il punto centrale è questo, cioè bisogna, il privato ha portato nuovi investimenti, c'è stato un aumento degli investimenti? No, ci sono dei dati oggettivi in cui... Ma i privati sono parte esiguissima del totale del sistema, gli investimenti sono venuti meno perché è il settore pubblico che non c'ha più soldi da mettere, o no Lucarelli? O pensa allora, che noi stiamo raccontando palle dicendo che c'è il 90% privato e che il 90% che ha la responsabilità di non aver investito? Perché io è questo che non riesco a capire quando parlo obiettivamente. Dati alla mano, il totale degli investimenti è diminuito, dica dal suo punto di vista, perché è la parte larghissimamente prevalente pubblica di chi oggi in Italia concretamente gestisce il servizio a non averci avuto più risorse da disporre e da mettere a questo fine, o no? No, io quello che dico è che c'è stata una riduzione... Sì o no, Lucarelli, mi può rispondere a una domanda? No, non mi può rispondere. È una logica del profitto, che non era una logica che apparteneva alla gestione di beni comuni. Questo è il punto centrale. Ecco, quindi se sei passata a un certo punto, al di là... della proprietà pubblica o privata, ma è lo schema privatistico che passa, questo è il punto centrale, perché noi stiamo parlando di uno schema, ora ancorché la proprietà sia pubblica ma gestita appunto da soggetti di diritto privato, si passa in una logica diversa. Si passa, ma qual è la logica diversa se le società sono a controllo pubblico e quelle private sono il 3% del totale di chi offre il servizio? Abbia pazienza, c'è stato un passaggio di una logica diversa, significa che c'è una regolamentazione diversa. Se c'è un soggetto di diritto pubblico, ci questa sono è, qui, pubblico. Qui ci dividiamo, vede Lucarelli, questa per me, e io mi assumo la responsabilità, e qui è l'unica volta, questa per me è una mistificazione, perché dire che la natura societaria e non la forma di chi esercita il controllo, la forma giuridica di chi esercita il controllo in una società, che è la cosa fondamentale, e nel nostro ordinamento non è così, e non è così in nessun altro paese, perché se chi esercita il controllo su una società è il pubblico, è al pubblico che poi piegherà le sue esigenze. La forma societaria può essere privata o mista, il problema è chi esercita il controllo. Questa è la mia opinione, però io capisco, rispetto al suo punto di vista. A questo punto direi che facciamo un'informazione rapida sulla circolazione stradale e poi riprendiamo con Stagnaro e soprattutto con le telefonate, abbiamo tante. Allora, un po' di telefonate rapide. Alessandro che ci chiama da Roma, prego Alessandro. Buongiorno dottor Giannino, io le telefono perché ho avuto un'esperienza diretta in quanto sono stato il presidente di un consorzio acquedottistico che riuniva 11 comuni e il discorso del piano d'ambito e degli ATO l'ho vissuto in prima persona e se da un punto di vista... Gli ATO, spieghiamo per chi a casa, con la vecchia legge Galli erano gli ambiti territoriali nei quali si operava l'ottimizzazione delle regole, per così dire. Sì. Ecco. E se da un punto di vista teorico io sono perfettamente d'accordo con lei, mi rendo conto però che la realizzazione, le modalità e i paletti che sono stati messi nella stesura dei piani d'ambito hanno delle falle tremende, tant'è vero che tutti gli ambiti che sono partiti hanno avuto dei problemi enormi, aumenti dal 100 al 300% della tariffa. Questo perché, torniamo al problema della remunerazione del capitale, per poter vincere la gara questi grossi gestori, anche stranieri, devono necessariamente buttare giù il loro margine, no? E quindi che succede? Succede che poi è proprio il piano d'ambito così come viene strutturato che permette loro di alzare poi il livello degli interventi da fare sul territorio che gli consente di rientrare di quel 7%. Alessandro, perdoni la domanda secca, con questi due quesiti il piano d'ambito viene toccato o resta com'è? Non viene toccato, ecco, io, allora io resta com'è, dico, quindi il punto che lei sta sollevando, però... cioè il punto che lei sta sollevando, l'inefficienza degli ATO, della legge Galli, sul quale io concordo, perché dati alla mano non si può scordare, non viene toccato dai quesiti, quindi è un problema, non è all'ordine del giorno, quello bisogna cambiarlo, però non diciamo che sono i privati e con l'ATO che c'entra, perché non è toccato dai quesiti la faccenda. Vanda da Torino, prego Vanda. Buongiorno. A proposito delle tariffe e remunerazione del capitale e investimenti, sì. Allora lei ha detto che solo il 3% delle aziende che gestiscono l'acqua è stato privatizzato in Italia. No, allora, questo aspetti un secondo, no, perché vedete, è possibile che su questo non ci intendiamo. Il 3% è dato dal vicepresidente delegato di Federutility, Mauro D'Ascenzi, che è il totale dei soggetti a controllo privato, non a forma, okay, privata, che gestiscono il servizio. No, perché su questo, come vede con Lucarelli ci mette nel privato tutte le società a controllo pubblico che hanno forma societaria privata e che ovviamente su questo è facile fare i giochi di prestigio, però D'Ascenzi dice no, guardate, i privati a controllo privato sul 3%. Prego Vanda. Restiamo a questo 3%? Allora andiamo a vedere se in questo 3% sono state aumentate le tariffe. Sì, sono state aumentate. Certo che sì. Sono stati fatti investimenti? Zero. Zero. Zero investimenti. Allora, questo è il famoso caso di tanto mi dà questo tanto. È il famoso caso di Vanda. No, perché su questo, perché stiamo parlando di quanti casi o di un caso? Non so. No, perché lei sta dicendo zero investimenti, quindi i dati che ha in mano sono relativi a? Non lo so. Ah, non lo sa, perché lo dice allora Vanda? Vanda, perché lo dice? Se non lo sa? Io lo dico perché è stato detto da varie parti. Lei mi sa citare un solo caso di azienda a gestione privata che ha fatto investimenti? Guardi, le porte ai privati noi le abbiamo aperte in alcuni ATO da cui abbiamo fatto passi indietro in Sicilia ed erano i soggetti pubblici a controllarle. Allora, abbiamo fatto passi recentemente. Non mi stupisce che quell'esperienza in metà degli ATO siciliani abbia avuto questo esito. L'altra vicenda alla quale invece tutti si riferiscono spacciandola come se fosse la situazione italiana è quella che riguarda un ambito nel Lazio che ha avuto vicende esplosive di impugnative da parte di migliaia di utenti per l'aumento delle tariffe e per questo il blocco degli investimenti, per questo. Allora, come vede, le vicende dei privati cattivi in Italia sono queste qua. Sbaglio Lucarelli? Lucarelli, no, io quello sbaglio. Che volevo precisare prima No, ma è possibile che mai mi dica se io dico sì o no una cosa giusta o meno? Lei ogni volta mi dice voglio dire un'altra cosa. Sbaglio o sono diversi da questi privati? No, io dico che sono obiettivamente diversi. Cioè, sono diversi. Lucarelli, mi dica dove stanno i privati che è diversi da questi che ho citato io, da quelli in Sicilia e dal famoso caso della cattiva multinazionale laziale. Dove? Mi dice sono, dove? Perché ci sono. Per me qua c'è un problema appunto che non è un problema di forma, ma è un problema di sostanza. Lei lo porta su un problema di forma. Va bene, d'accordo. La forma societaria, però facciamo parlare il segnale. La forma societaria, lei l'ha già spiegato, vuole le aziende speciali e dice che tutte le grandi municipalizzate a controllo pubblico sono tutti soggetti privati. E va bene, il codice civile è alla mano, lei sa benissimo che dice una cosa, ma quello che conta è il controllo. Stagnaro, che dice? Il libro, innanzitutto, vogliamo ricordare come si chiama, quando esce l'autore? Il libro di cui stiamo parlando è un libro di Fredrik Segerfeld, che è un economista svedese, che si è preso la briga di fare un'indagine sulle esperienze di privatizzazione, tra virgolette, principalmente nel mondo in via di sviluppo. Il libro si intitola Acqua in vendita ed esce per IBL Libri nelle prossime settimane. Quello che Segerfeld mostra, ma che mostrano anche tante altre indagini empiriche, cito quella della Banca Mondiale perché è probabilmente la più completa, è che nel mondo in via di sviluppo, dove il problema principale è collegare la gente agli acquedotti, mentre da noi quasi tutti hanno un rubinetto in casa collegato alla rete, nel mondo in via di sviluppo le esperienze di privatizzazione hanno sì portato a delle parziali aumenti delle tariffe, ma questi aumenti delle tariffe sono serviti ad estendere le reti, a fare investimenti e quindi a migliorare le condizioni di accesso al servizio idrico e di qualità dell'acqua consumata per milioni e milioni e milioni di persone. La stessa Banca Mondiale dice che anche se ci sono stati dei casi di esperienza negativa, perché non viviamo in un mondo perfetto, la maggior parte dei casi è stata molto positiva, la maggior parte dell'esperienza è stata molto positiva dal punto di vista dell'efficienza nello sfruttamento delle risorse idriche, dell'estensione delle reti e della qualità del servizio. Lo stesso aumento delle tariffe, stiamo sempre parlando del mondo in via di sviluppo, rappresenta sì un aumento della spesa per l'acqua di quelli che erano già collegati alle reti, che principalmente erano le fasce a reddito medio-alto nei centri delle grandi metropoli e dei paesi in via di sviluppo, ma ha rappresentato una riduzione del costo dell'acqua per quelle popolazioni periferiche, povere, che dovevano invece camminare tutti i giorni chilometri per andare ad approvvigionarsi al fiume, che dovevano comprare acqua dai, tra virgolette, contrabbandieri d'acqua che venivano con le autobotti a cederla nei quartieri poveri. Questo per quel che riguarda il mondo in via di sviluppo. Parliamo dell'esperienza italiana. Io non so, questo mito sul fatto che non si fanno investimenti da cosa nasca. È vero che si fanno meno investimenti di quelli pianificati, ed è vero che questo accade principalmente o per problemi di natura, diciamo così, finanziaria, per esempio perché la copertura da parte dell'ente pubblico che va sponsorizzato un determinato investimento viene meno, oppure per ragioni autorizzative, rallentamenti e cose che sappiamo. In ogni caso, negli scorsi anni, dice l'ultimo rapporto del Conviri, che risale purtroppo al 2008, negli scorsi anni sono stati investiti 2,2 miliardi di euro, che non sono esattamente una minuzia, e questo si riferisce al 2007 naturalmente. Altro punto ancora, quello sulla remunerazione del capitale. Da Scienza ha detto una serie di cose molto giuste e ci tengo a enfatizzare questo aspetto, nel senso che garantire la remunerazione al capitale investito è, come dire, la condizione necessaria perché vengano investiti dei capitali. Al che uno dice: sì, però se tu affidi la gestione dell'acqua a un soggetto pubblico anziché a un soggetto privato, fa esattamente la stessa cosa rinunciando alla remunerazione. Questo è empiricamente falso, nel senso che il soggetto a gestione puramente pubblica non è che non ha remunerazione del suo capitale, è che tipicamente chiude il bilancio in pareggio o in perdita perché ha una struttura dei costi inefficiente, per cui la remunerazione del capitale, anziché essere, come dire, formalmente visibile in un bilancio, si traduce nella remunerazione di inefficienze, per esempio esatto, nel fatto di avere società sovraorganiche e così via. Ultimo punto, io sono parzialmente d'accordo col professor Lucarelli quando lui dice che il mix tra una forma giuridica privatistica e il controllo pubblico può portare a delle distorsioni, e quindi immagino che il professor Lucarelli sarà d'accordo con me nel dire che questo problema va risolto dando una coerenza interna al sistema e arrivando alla privatizzazione completa di tutti gli attori del settore, in maniera tale anche da rompere il conflitto di interessi tra il soggetto pubblico che controlla, diciamo così, la municipalizzata e la municipalizzata stessa. Detto questo, non vi è dubbio, dati alla mano, e questo lo può confermare anche la Scienzi, che il passaggio da un sistema puramente pubblicistico a un sistema misto, diciamo così, abbia comunque mobilitato le risorse, abbia consentito una maggiore chiarezza, abbia portato efficienza economica nel sistema e abbia creato una condizione in cui l'acqua viene pagata da chi la consuma e non da chi paga le tasse, che in un paese dove l'evasione fiscale dovrebbe essere il punto di fondo. Raggiunge in Italia, però, è un elemento da poco. Ultimissimo punto, mi scusi, sulla faccenda del fatto che tornando alle aziende speciali o cose del genere arriveremo all'efficienza, qui ci troviamo di fronte a quella che gli economisti chiamano nirvana fallacy, cioè si contrappone un mondo totalmente ideale e perfetto con un mondo reale e imperfetto, e questo, come dire, l'unico commento che mi viene è parafrasando David Friedman e pensando che nella municipalizzata ideale non si abuserà del potere, le persone preposte alla guida non saranno minimamente influenzate da interessi personali, no, saranno tutti magari anche biondi con gli occhi azzurri. Però detto questo, io nel ringraziare Carlo Stagnaro, Alberto Lucarelli e Mauro De Scienzi, avrete capito che le questioni sono complicate. Io però ho l'obbligo di dire a De Scienzi e a Stagnaro che la presa sull'opinione pubblica, lo vedo dalle telefonate e dai messaggi, l'intelligenza di chi ha proposto i quesiti è di proporre un mondo in cui il pubblico significa niente tariffe più alte e niente loschi intrighi, e su questo la maggioranza anche dei nostri ascoltatori ci crede. preferisce non sapere se la tariffa è bassa perché andrebbe adeguata, preferisce dire no, non devono essere i cattivi privati. Questo è il punto centrale per me di questo referendum, e l'opinione è che ci sarà vasta protesta se il governo, come farà, credo, proporrà un'autorità di settore per evitare il referendum, perché sembra l'ennesimo scippo di una scelta che è una scelta molto di campo. Viva il pubblico, nessuno paga il pubblico, poi paghino tutti con le tasse. Io di tasse ne pago abbastanza, troppe. Si paghi di più a fronte di servizi. Questa è la conclusione della trasmissione. Abbiamo sforato Linea Generale Radio.